Stabilito che la tiri in volo per suo marito. Ma come? Ehi, non è turco. Che importa a me? Ma di Maometto la legge non permette un tal pasticcio. Altra legge io non ho che il mio capriccio. Mi intendi? Signor sì. Sentimi ancora. Per passar bene un'ora io non ritrovo una fra le mie schiave che mi possa piacer. Tante carezze, tante smorfie, non son di gusto mio. E che c'ho da fare io? Mi dovresti trovar un'italiana o una gran moina, già aver una di quelle signorine che dà martello a tanti cicisbei. Io servirti vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar. Se fra sei giorni non me la trovi e segui a far lo scaltro, io ti faccio impalare, non occorre altro. Thank you. forse verrà, ma non lo spero. Schiavo e dal mio ben lontano. Senti, italiano, può darti moglie? A me che sento, oddio, ma come in questo stato? A ciò non devi pensar. Vieni e vedrai un bel volto, un bel cuor, con tutto il resto. Oh, povero amor mio, che imbroglio è questo? Thank you.

Ci della sorte, io so fare l'indifferente, mangerò se per niente, io so stanca di soffrire, sì, so stanca, so stanca, so stanca di soffrire, sì, so stanca, so stanca, so stanca di soffrire, sì, di soffrire, sì, di soffrire. E più prudenza di qualunque innamorato. Oh, più femma, e più prudenza di qualunque innamorato. Ma tormento del passato, tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo, tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo, tutto quel che può venirsi, tutto quel che può venirsi, tutto quel che può venirsi, tutto quel che può venirsi. Con la spalla è un precipizio. Meglio un turco che un piccone. Meglio il fiasco che il lampione. Meglio un turco. Meglio il fiasco che un piccone. Che il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Vanne al diavolo in malora. Più una donna di un fuoco di garrini. Buonanotte, sì signora, ho finito l'impazzir. Vannadio, buonanotte, fuori il malore, buonanotte, più una fuoco ho finito l'impazzir. No, no, buonanotte, sì signora, vannadio, ho finito l'impazzir. Finito, finito, finito, finito, finito, finito, finito, finito. Sarà quel che sarà, sì, sì, sarà quel che sarà. al non resiste l'acceso cor mio. Questo caro trionfo novello quando dolce a quest'alma sarà. Voi partite, non noiate, obbedite, non noiate, ora seguo, non passiate, non vedite, non vedite. Al mio fuoco, al trasporto, al desirio, non resiste l'acceso cor mio. Questo caro trionfo novello quando dolce a quest'alma sarà, quando dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quando dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quando dolce a quest'alma sarà, quando dolce a quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma disposto l'ascello a salpar e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno ch'io possa ancora una volta riveder Mustafa. Sol questo io bravo. Pria di parti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci partiti allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti può una donna bramar, mariti e amanti. Il marito al presente andrà,

Oh, so something you're going to do. Romani la amata, canta il suo accoglie l'italiana. Il mio puntiglio con questa signorina è tale che io ne sembro innamorato. Ma, signor Mustafa, che cos'è stato? Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati, cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del palo. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il palo in Alceri è un complimento. Eccolo, ahimè. Non dubitare, e viene d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrare quanto mi cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Grazie, obbligato. Viva, signor mio col basti indosso alla peglia mia di cose con mi vado per far quant'era meglio che tu andassi in fondo al mare. Grazie, quanti onori, alla fine delle cose, come parla di parte del mare. Thank you. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di Er Taddeo, Caimacane, ti presento, Ser Taddeo, Caimacane. Faccio a prendi quanta stima di te faccia Mustafa. Faccio a prendi quanta stima di te faccia Mustafa. Hai capito questo cuore? E forse come sto, questo cuore pensa adesso come sto, questo cuore pensa adesso come sto. Thank you. Fra canti e suoni, piana tremolar del che mai sento? Capataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, capataci. Che vuol poi significar? Accolora coloro che mai non sanno disgustarsi col ben stesso. Papà, facci di mangiare! Isabella. Il mio piede senza ma, Saria bella, ma con quel mezzo termine per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci ed altri qui a suo tempo verranno sopra il macello. Il gioco più bello non si può far. Ma eccola per Bacco, se con gli schiavi ancora. Ne ero sicuro. Quanto è brava costei. Con due parole agli sciocchi fa fare quello che vuole. Intrepido, il tuo dove? cerimonia, è quel suo schiavo che qui appunto ritorna e a seco il coro dei pappataci. Ed onorarmi dunque la bella a tanta fretta. Che lavor che la sprona. Oh, benedetta. Papa, ci sta un cielo Mustafa. baci. Tu non fai quel che hai giurato, or ti insegno, or ti insegno. Vada a me, or ti insegno, or ti insegno. Vada a me. Pappa taci. Mio amore. Mancia e taci. Pappa taci. Mio amore. Mancia e taci. Basta, basta, basta, basta. Saper far meglio di te, aver capito, saper far meglio di te, aver capito, saper far meglio di te. Come, come, potro di cuore, resto, forte, e amore, sposa mia non più italiane, con la fede mi perdona. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。Thank you.